Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? E bentornati Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon che, scusate se insistiamo, torna ancora sulla questione dell'antifascismo, visto anche dalle nuvolette. Perché tante sono state le iniziative in questo passaggio, 25 aprile e 1 maggio, dedicato a questo aspetto dell'antifascismo così oggi drammaticamente attuale. Per prima cosa allora ci spostiamo a Firenze, dove fino al 3 maggio c'è stata la possibilità di guardare questa rassegna visiva Matite resistenti, mostra dei vignettisti per la Costituzione. 120 disegni di autori tra vignette, fumetti, illustrazioni varie che appunto prendono in esame l'antifascismo ieri e oggi, le stragi di Stato, le connivenze con i peggiori elementi della destra avversiva e gli elementi del governo attuale. Tutto questo esposta al Circolo Arci di Porta Prato a Firenze, con 30 autori che appunto trattano il tema della resistenza e della liberazione dell'antifascismo, il tutto a cura della rete antifascista San Jacopino. Per saperne di più, Morena Moretti ha raggiunto uno degli organizzatori. È stata inaugurata al Circolo Arci di Porta al Prato a Firenze il 22 aprile una mostra, una bella mostra, Matite resistenti, che sono vignette, illustrazioni, fumetti antifascisti e curata anche, tra gli altri, da Lido Contemori, che è con noi al telefono. Buongiorno Lido. Buongiorno Morena, sì, grazie, ecco. Grazie dell'ospitalità. Sì, questa mostra è una mostra che durerà a lungo, una mostra importante, con tantissime opere. Ci racconti quindi come nasce e la parte che hai svolto tu in questa operazione, diciamo. Sì, questa iniziativa rientra nelle attività dell'Aprile Antifascista qui a Firenze e in particolare di questo quartiere appunto di Porta al Prato, San Jacopino. In questo quartiere esiste una rete antifascista importante da sempre che fa tutta una serie di iniziative, soprattutto presso le case del popolo. Questa infatti è una casa del popolo, è un circolo Arci, che ospita appunto questa mostra. Matite resistenti, l'abbiamo intitolata, per individuare il fatto che sono dei disegni, sono delle vignette, sono delle illustrazioni, fumetti, a tematica antifascista in occasione del 25 aprile. Durerà fino al 4 maggio questa mostra. E abbiamo fatto anche un video che è stato pubblicato sul canale YouTube dei Vignettisti per la Costituzione. I Vignettisti per la Costituzione sono un collettivo, io ne faccio parte e ho curato questa mostra dal punto di vista grafico, nel senso che ho scelto i materiali, li ho impagliati e poi sono stati stampati su dei pannelli di Forex e allestiti. E ho curato anche il video, perché io mi occupo in particolare del canale YouTube dei Vignettisti per la Costituzione. Questo gruppo, questo collettivo, opera dal 2016, cioè è presente in rete, su tutti i social sostanzialmente, dove lo potete trovare quotidianamente, perché noi pubblichiamo tutti i giorni 4, 5, anche più vignette dal 2016, dunque l'archivio diciamo è enorme, ci saranno 10.000 disegni fatti in questo periodo e questo gruppo è nato nel 2016 soprattutto per l'ostinazione e la grande iniziativa che ha messo in piedi Luisa Marchini a Bologna con Salviamo la Costituzione. Era nato in occasione del referendum contro la controriforma Renzi-Boschi e poi il collettivo però non si è sciolto, ha continuato a lavorare, ha continuato ad essere presente. Appunto, se gli ascoltatori hanno curiosità, possono andare su qualsiasi social possibile e ci trovano. In particolare, se volete vedere questa mostra, sul nostro canale YouTube, Vignettisti per la Costituzione, trovate il video con qualcosa come 120 disegni di 30 autori. Lido Conte Mori, ecco, una mostra molto ricca, molto anche bella, io l'ho vista naturalmente. Come avete scelto le tavole e soprattutto sono tavole che alcune forse sono state disegnate anche per l'occasione, dico quest'anno, però probabilmente fanno parte di una sorta di archivio, non so se personale o collettivo. Dimmi tu come avete appunto scelto le opere. Sì, esattamente, cioè una specie di fusione delle due cose, cioè sono materiali personali dei vari disegnatori, non sto a fare i nomi perché sono autori molto conosciuti, questo collettivo è costituito da decine e decine di disegnatori, se andate appunto a vedere le nostre cose ci trovate degli illustratori, dei fumettisti, dei vignettisti conosciuti che lavorano da molto tempo con noi, anche stranieri, ce ne sono di veramente molto, molto, molto bravi, insomma, da questo punto di vista non c'è dubbio. E alcuni di loro hanno fatto dei materiali specifici per la mostra e altri materiali li ho trovati io andando a spulciare nel vastissimo archivio che abbiamo. Perché dal 2016 a ora appunto abbiamo prodotto, ma non lo so, saranno 7-8 mila disegni, non so, qualcosa, un numero veramente incredibile di materiali. Interessante appunto Matita Resistenti, il titolo della mostra, perché credo che questo ci dica molto il vostro pensiero, ovvero che anche attraverso il disegno, attraverso questo media così importante, così anche bello e fruibile anche da persone forse più giovani, si possono raccontare storie, veicolare messaggi molto importanti oggi, no? Sì, assolutamente. L'antifascismo nel nostro caso è davvero rigoroso, necessario, da sempre è un tratto distintivo dei disegnatori di questo collettivo e questa mostra Matite Resistenti ne è un'ampia dimostrazione. I tratti ironici, dissacranti della satira è vero che ci fanno sorridere, ma anche ci fanno riflettere, ricordandoci, oltre la memoria, l'attualità dell'impegno antifascista. Non è solo un discorso di ricordare, cioè noi ovviamente è un discorso anche di impegno attuale, di impegno che questi disegnatori dimostrano quotidianamente e pubblicando appunto i loro disegni. Si trattano in questi nostri social argomenti di attualità politica e ovviamente l'attualità politica è quella che è e chiaramente con un governo che ci ritroviamo mi sembra che sia alquanto piuttosto doveroso insomma questo tipo di impegno. Benissimo, Lido, io ti ringrazio e invitiamo tutti ad andare a visitare la mostra Matite Resistenti. Cercando libertà fra rupe e rupe. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti. Dalla mostra fiorentina veniamo invece a un grande allenatore dello sport internazionale italiano e bolognese, Arpad Weis, che nacque a Solte nel 1896 e che già nel 1920 all'Ambrosiano, ovvero all'Inter, gli conquistò a 34 anni il primo scudetto. Poi arrivò a Bologna e ne vinse due scudetti con la squadra rossoblù, tanto da portare il vecchio detto: il Bologna, grande squadra che tremare il mondo fa. Arpad era ebreo e fu vittima delle leggi razziali in Italia. Rifugiatosi nei Paesi Bassi con l'occupazione tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale, fu arrestato e deportato dapprima nel campo di transito di Westerbork, successivamente ai campi di lavoro e infine ad Auschwitz, dove trovò la morte per mano nazista. Una graphic novel ricorda questa grande figura dello sport e della cultura. Il titolo del lavoro al Arpad Weis è Il Littoriale, edito da Minerva, e il suo autore è Matteo Matteucci, che ascoltiamo in questo passaggio durante le giornate internazionali dell'ebraismo di Milano. Racconto molto in fretta quello che ho fatto su Arpad Weis. Abbiamo dedicato una sera a un racconto in quella trasmissione, che è la Domenica Sportiva, proprio in occasione della pubblicazione del suo manuale del gioco del calcio, che venne scritto nel 1930 sottolineandole la modernità. Leggo testualmente due o tre frasi sue. Tra i caratteri differenziali del gioco del calcio spicca il suo essere esclusivamente collettivo. L'esibirsi dei singoli è spesso dannoso al complesso della squadra. Poi parla di terzini, mediani, ali, mezzali, centravanti. Per tutti l'allenamento tecnico e tattico sono i movimenti in velocità col pallone e senza pallone. È il tempo di rilascio della giocata. E poi quest'ultima nota, così curiosa, sul capitano. È divenuta consuetudine in ogni società di calcio affidare la carica di capitano della squadra al giocatore più anziano o più abile. Sono questi ottimi elementi di valutazione perché premiamo l'attaccamento ai colori del giocatore oppure la sua superiore abilità. ma non dovrebbero essere i soli requisiti, né dovrebbero prevalere su altri che la pratica consiglia di convenientemente apprezzare. Ecco, Weitz ancora oggi ha un primato, è stato l'allenatore più giovane a vincere uno scudetto in Italia, vince lo scudetto dell'Inter Ambrosiana Inter, la storia siamo noi, le storie siamo noi, la storia dell'Ambrosiana Inter è una storia nella storia, perché quel passaggio storico in cui il club venne chiamato prima Ambrosiana e poi Ambrosiana Inter proprio richiama a tutto questo periodo storico. Nel 1929-30 vince un campionato e poi dal 35 al 37 ne vince altre due a Bologna. Quando poi arrivano le leggi razziali è costretto ad andarsene in Francia con la famiglia, continua ad allenare, continua a fare il suo mestiere. Un mestiere che rivoluziona dal campo perché sta sul campo, vicino fisicamente ai suoi calciatori, cosa che in quei tempi ancora gli allenatori non facevano, erano delle figure molto distanti. E lui in questo cambia, è proprio qualcosa di nuovo, è un metodo nuovo che propone. E poi nella Francia è costretto ad andare in Olanda, dove la sua storia si ferma. E insieme alla sua storia si ferma la storia della sua famiglia, dei suoi cari, e poi dopo c'è l'oblio. Raccontarlo e riprenderlo è stato un modo per soprattutto riportare alla luce la modernità di un pensiero che già in quell'epoca si stagliava in mezzo all'oscurità dell'umanità di quel periodo storico. Raccontarlo oggi serve soprattutto di fronte ai rigurgiti con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Le storie siamo noi. Che cosa ci dà fastidio quando raccontiamo? Che cosa ci indispettisce quando raccontiamo? A me sul palco, quando racconto una storia inventata o quando magari cerco di interpretare una storia non mia, mi dà fastidio non essere creduto. Se recito Amleto vorrei che lo spettatore credesse nel momento esatto in cui io dico essere o non essere, questo è il problema. E se lo spettatore non mi crede in quel momento io non sto facendo il mio lavoro, e soprattutto però c'è una distanza che mi lascia male. E quando la storia è vera è peggio. Anni fa ho avuto la fortuna di ascoltare la testimonianza di Liliana Segre in università e soprattutto di leggere di questo incubo ricorrente di Primo Levi, di questo incubo notturno, di tornare a casa e di raccontare a chi era rimasto quello che era successo e di non essere creduto. Credo che non ci possa essere un'atrocità peggiore. E allora per questo abbiamo il dovere di raccontare, cercare di raccontare oggi, di far arrivare la parola, di portarla così come un calciatore porterebbe un passaggio, un pallone, un compagno, perché intorno tutto il resto è più suadente. Le immagini, fortunatamente queste immagini sono immagini buone, ma le immagini oggi anticipano la parola, corrono molto più veloci e tutte le parole intorno a volte ci sovrastano, ma la parola raccontata, portata per esempio attraverso il racconto, il teatro, è una parola che ancora ha un potere, ha una forza. C'è un altro aspetto che secondo me è fondamentale ed è vincente, e lo recupero ancora da quella che fu quella testimonianza. Il fatto di far sì che in qualche modo qualcuno ti venga incontro e ti dia una mano. Il fatto che nel momento in cui i testimoni non ci siano più, qualcun altro che ha ascoltato metta parola per te, perché come diceva sempre Primo Levi, il dolore è qualcosa che si crea dal nulla, basta poco, basta non fare, basta non dire. Ecco, io quel giorno sentii la testimonianza di Liliana Segre che invitò tutti noi studenti a dire accendetevi come candele della memoria, raccontate quello che avete ascoltato oggi, raccontate quello che avete studiato in questi libri. Era l'opera completa di Primo Levi, sempre lì c'è l'ultimo passaggio che credo nel raccontare, perché le storie siamo noi. Io nella storia di Weitz mi riconosco, non in quanto interista, in quanto è storia del calcio, in quanto è storia di questo paese in cui sono nato, in cui sono cresciuto. C'è il canto di Ulisse, capitolo di Se questo è un uomo. Primo Levi sta camminando e trasportando con una stanga, insieme a un compagno di sventura, sta trasportando la zuppa, 50 kg, questa pentola gigante. E nel momento in cui sta camminando in mezzo al campo, a un certo punto inizia a declamare il canto 26esimo dell'inferno.